mortali, con gli anima chi la è. Sana beni, io vini in cali cambo, che è tutto vana, di vinto una vittoria. Bye.